E torniamo in diretta perché siamo in collegamento con gli studenti di Pisa che sono andati a occupare la torre. Pronto, ci sentite? Sì, sì, ciao a tutti e tutte, siamo qui a Pisa, siamo in Piazza dei Miracoli, migliaia e migliaia di studenti dopo l'importantissima giornata già di ieri in cui ricordiamo gli studenti hanno prima bloccato la città occupando i ponti, poi hanno occupato le piste dell'aeroporto internazionale e poi hanno occupato i binari della stazione. Oggi si rilancia, migliaia di studenti sono arrivati in Piazza dei Miracoli, una parte di questi sono riusciti a salire sulla torre e ora stanno calando giù uno striscione nel quale si ribadisce ancora una volta la nostra opposizione al DDL Gelmini. Intanto ci sono anche arrivate notizie dalla discussione alla Camera, pare insomma ci siano dei tentennamenti, pare ci sia Confindustria che spinge per una votazione questo pomeriggio alle 4:30. Noi oggi qui rilanciamo per dire ancora una volta che qualunque giochetto vorranno fare al governo, noi saremo comunque in piazza, saremo qui a puntare sempre più in alto per opporci alla riforma, ma in maniera più ampia per opporci alla distruzione del nostro futuro. Va bene, noi vi ringraziamo, magari ci andiamo a risentire nel corso della giornata e vi facciamo un in bocca al lupo. Perfetto, grazie, ciao. Ciao. Ciao.